You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Buonasera a tutti da Valentina Furlanetto, benvenuti a Indovina chi viene a cena. Questa sera un graditissimo ritorno, abbiamo con noi Antonio Di Chele e Di Stefano. Buonasera Antonio. Buonasera a tutti. Grazie per essere tornato a Indovina chi viene a cena. Tu insomma eri stato nostro ospite quando è uscito il tuo primo libro, Fuori piove dentro pure, passo a prenderti, un grandissimo successo editoriale per Mondadori. E adesso insomma sei di nuovo in libreria e un altro successo editoriale già nelle prime settimane, mi pare di capire, si sta affermando. Prima o poi ci abbracceremo, questo tuo nuovo libro, no? Sì, sì, siamo terzi in classifica dopo una settimana, sono abbastanza contento. No, abbastanza, perché io puntavo al primo posto, ti dico la verità. Ah, però. Sì, va bene lo stesso, per la prossima volta. È un libro come il precedente che si ruota attorno a una storia d'amore e alle difficoltà di questa storia d'amore, no? Noi avevamo parlato la prima volta con te quando eri un caso editoriale, e anche perché, come tu sai, nella nostra trasmissione parliamo di identità e di radici altrove, e tu hai i genitori che vengono dall'Angola, e quindi anche nel libro avevi raccontato una realtà dell'Italia di oggi, di quando ci si incontra e si hanno origini diverse, e quanto questo possa essere magari difficile, ostacolato dalle generazioni precedenti. In questo nuovo libro in realtà ti allontani da questi temi, no? Non c'è forse questo nodo intorno al quale, quello dell'identità, delle radici, dell'essere un po' italiani, un po' stranieri, o di venir percepiti come tali. Sì, ci sono altri nodi. I nodi della famiglia, i nodi del fatto che molte volte dobbiamo avere il coraggio di accettare che se una persona non ci vuole è così. E ho cercato di raccontare altre cose che non ho raccontato su Fuori piove dentro pure, senza però legarmi al discorso di identità, no? Più che altro una questione di identità, però a livello emotivo, no? Che siamo più simili a livello emotivo. E quindi ho cercato di raccontare una storia diversa dal primo libro, e ti dirò che io l'apprezzo molto di più. Il secondo libro mi piace molto più di più del primo. Dal primo libro so che, insomma, non so che punto sia il progetto, ma c'è il progetto di un film. Sì, dal primo libro abbiamo il progetto di un film, e speriamo di iniziare a svilupparlo presto, perché la speranza è di vederlo nelle sale il prossimo anno, però non sa mai, le tempistiche sono un po' quelle che sono. Invece sì, questo è, molti mi dicono che c'è uno stile molto sceneggiato, molto di immagini. E anch'io, sai, personalmente ci vedrei molto bene un film di questo libro, il classico film contemporaneo italiano, di questo ragazzo che viaggia in treno e parla di una storia d'amore passata. Sarebbe bello riuscire anche a sviluppare il film di questo, però dipende. E sai, lo scorso anno, dopo una settimana, mi contattarono 7 case di produzione interessate. Adesso, ad oggi, pure nessuna. You always find the rain. In rainbows, and I thought that you were sane, but all your cracks showed, and I could wear that dress. You won't look your best. I could get undressed. You'd still look depressed. It's all too much. You're so cold to touch. You don't open up. You don't open up. Your kisses are not what I wanted. Your kisses are not what I crave. Mi pare di capire dalle interviste che ho letto in questi anni tue che sei un po' insofferente alle etichette, e soprattutto alle etichette di chi vuole ritrovare le tue radici e in qualche maniera appunto metterti in una casella, no? Allo stesso modo sei molto tu stesso che ritorni alle tue radici quando ne parli. Ti leggo due frasi di un'intervista che ho ritrovato. Dice: questa cosa del raccontare tu dici questo, il mio amore per l'Africa di come l'ho vissuta è stata una cosa che mi è tornata contro. Io non voglio diventare lo scrittore italo-africano che scrive libri per gli italo-africani. Però poco dopo nell'intervista dici: sicuramente il terzo libro che scriverò sarà legato all'Africa. Ma sì, ma perché comunque io sono molto autobiografico nelle cose che scrivo, no? E quindi molte volte le persone pensano che il primo libro sia più che altro una mossa di marketing, ragazzo nero che racconta un libro sui ragazzi neri, no? Invece non è stato così. Io ho scritto questo libro perché volevo raccontare il mio vissuto e quindi è stata una conseguenza. Io il terzo libro sì, vorrei raccontare una storia legata al continente africano, perché io quest'anno farò per la prima volta un viaggio, andrò in Angola a trovare mia madre e quindi credo che lì troverò tantissime ispirazioni per poter scrivere, proprio per il fatto che io scrivo molto parlando della mia vita, di quello che vivo, che il terzo libro sarà molto legato a questa vicenda, però non lo so. Ho letto che vuoi diventare ricco, insomma, che lo scopo è quello. Allora io ho pensato, leggendo, avendo letto i due libri, speriamo che diventi ricco in fretta, così scriverà un libro più pesante. No, ma non, sinceramente non sapevo che vendevano, perché il primo l'ho scritto che io non l'ho autopubblicato da solo e poi Mondadori mi ha chiamato. Io sono convinto di una cosa, che scrivere non fa di te uno scrittore. Uno scrittore lo si diventa negli anni. Io sono solo 2 anni che scrivo e già da fuori, prima dentro pure, prima o poi ci abbracceremo, io noto una crescita. E sono convinto che fra tipo 3-4 anni potrò iniziare a scrivere magari libri definiti più per adulti. Però credo che sia una questione di tempo, di libri che leggi e di applicazione. Io non sono uno che crede nel talento, io credo nel lavoro, nel duro lavoro. L'ultimo anno mi sono messo a lavorare tanto e per me fra 3-4 anni avrai uno di quei libri che ti potrai leggere anche tu e dirai: ok, finalmente di Stefano, mi piace. You don't understand, you don't hold my hand, 'cause your kisses are not what I wanted. Your kisses are not what I crave. Your kisses may be a beautiful art, but all I ever wanted was your heart, right from the start. Your life, and I start to wonder what this girl she might be like. And I bet she don't look at stars in the night. I bet she can't sing. I bet she can't write. Parlavi prima delle letture, no? Della necessità anche di crescere attraverso letture. Tu sei molto giovane. Tra il primo libro e questo, e quali sono stati i libri, gli scrittori che ti hanno fatto dire: caspita, questo però mi sta facendo cambiare? Ma sicuramente Diego De Silva è stato l'autore che io ho letto di più e riletto di più nell'ultimo anno. Ho letto, l'ho scoperto a caso un giorno in libreria e da quel momento lì in poi ho iniziato a leggermi tutti i suoi libri e credo che lui mi abbia aiutato molto anche a livello narrativo a raccontare le cose. Però comunque c'è un gap altissimo nei confronti suoi e l'obiettivo sarebbe un giorno scrivere come lui. Prima scherzavamo sul fatto, ma penso che sia vero, che tu vuoi diventare ricco. Quanto c'è in questo della necessità di un riscatto? Ma sai, molte volte si parla dei soldi come se fossero un male, ma senza i soldi non si potrebbero fare tantissime cose. Cioè, senza i soldi tu non puoi studiare, anche se ci dicono che la scuola è pubblica, senza i soldi tu non puoi fare una serie di cose. Io voglio avere i soldi perché voglio fare tante cose, viaggiare per hobby, comprarmi una macchina perché mi va e non perché mi serve, perché la vita è questo, fare quello che ci piace, e io voglio per almeno un po' con la mia vita fare quello che mi piace. C'è tanta voglia di riscatto, ma anche perché comunque quando in passato ti sono state negate tante cose, poi desideri averle e sapere cosa significa averle. Quindi per questo cerco di applicarmi, di scrivere, di fare, anche perché voglio vivere come mi va. E dal punto di vista invece di quello che accade nel mondo, pensi che potranno entrare di più questi temi di attualità in quello che scriverai? No, sicuramente no, perché comunque non mi interessa molto raccontare quello che accade ad oggi. Ci sono tantissime informazioni, abbiamo internet, abbiamo una serie di cose. A me piace molto l'idea che quando qualcuno prende il mio libro in mano, legge, stacchi un attimo con tutto quello che ci accade, tutte queste informazioni, tutto questo male che arriva. E, sai, informare non mi piace molto. Io preferisco parlare d'amore, di cose così, di sentimenti. Alla televisione non ce l'ho nemmeno in casa, quindi non sono neanche più tanto informato su quello che ci accade attorno. Io scriverò sempre solo cose così, anche se a molti non piace, ma ho detto anche tempo fa che si rassegnino. A chi non piace? Ma molte persone, molti definiscono quello che scrivo banale, dicendo, io dico sempre che non conta come dici una cosa, conta il significato, che se io amo una persona e per dirglielo basta dire ti amo, allora io continuerò a dire ti amo, senza usare altre 100.000 parole per dirne semplicemente una. Io sono così, preferisco essere più semplice possibile, ma far capire quello che voglio dire, che essere tanto complicato e non dire alla fine nulla. Oggi è un giorno perfetto per volare, per staccare l'ombra da questo cortile. La signora dei passaporti ha messo un timbro speciale. Bentornati a Indovina chi viene a cena. Questa sera parliamo con Antonio Di Chele Di Stefano, che avevamo imparato a conoscere quando ha pubblicato il suo primo libro. Ora è il secondo, in libreria con Mondadori. Prima o poi ci abbracceremo. Un libro nel quale si sente forte la nostalgia per questa ragazza, Irene, ma in qualche maniera si traspara anche la nostalgia che, Antonio, tu sembri provare per un'assenza nella tua vita, quella di tua madre, no? Perché a un certo punto tua madre se n'è andata, era in Italia con voi e è tornata in Angola. I miei genitori sono partiti dall'Angola negli anni 80, sono arrivati prima in Svizzera e poi in Italia nei primi anni 90, e io sono nato a Busto Arsizio Varese. E poi dopo niente, i miei genitori da Busto Arsizio si sono trasferiti al sud, nel sud Italia, perché comunque tramite amici e contatti gli era stato detto che avrebbero trovato lavoro. E mio padre ha iniziato a lavorare al sud nei campi di pomodoro. È difficile vivere in quelle situazioni, in quelle zone, perché sono zone dove non c'è molta ricchezza e quindi le persone vivono con la paura di perdere quel poco che hanno. E quindi dopo si creano queste situazioni di disagio e di sconforto tra le due parti, le guerre tra poveri, no? Poi mio padre raccontava che comunque era come stare in un piccolo villaggio di un qualsiasi paese africano, perché si creavano questi villaggi dove c'erano solo i ragazzi che lavoravano nei campi e quindi c'era poca Italia. Gli unici italiani che si vivevano erano i proprietari terrieri oppure i conduttori degli autobus. Quindi mi raccontava che questa è stata una cosa che mi è rimasta molto, molto impressa, il fatto che comunque erano andati via dal continente e si erano ritrovati in una piccola oasi. In una piccola Africa. Sì, in una piccola. Poi sono andati a nord. Sì, sì. Ci siamo trasferiti a Ravenna, e non avendo conoscenze, mia madre ha dovuto reinventarsi una vita tutta da sola con mio padre. E siamo stati fortunati perché comunque lei poi è riuscita a trovare lavoro, siamo riusciti a trovare casa e mio padre è riuscito un po' a stabilizzarsi. E poi mia madre negli anni è riuscita poi ad aprire un negozio di alimentari dove lei lavorava e noi andavamo ad aiutarla le domeniche. E dove passava questa varia umanità di persone anche straniere, no? Molti africani di varissimi paesi, perché l'Angola non è la Nigeria, non è il Senegal, e tu racconti degli spunti interessanti fra anche le differenze culturali, i pregiudizi fra africani stessi. Ma sai, ma non c'erano solo africani, c'erano tantissimi anche europei, polacchi, ucraini, c'erano proprio tutte quelle quelle persone che rappresentavano quelle nazioni da cui le persone andavano via. Un bel angolo da cui vedere il mondo. Sì, un bel angolo da cui vedere il mondo. Io ho imparato lì tantissime cose, ho imparato a differenziare, a distinguere i paesi stessi, perché a scuola si faceva, sai, si diceva una cosa senza spiegarla, quindi si parlava di Africa e poi si usciva da scuola convinti che l'Africa fosse un paese, si parlava di Sud America e si faceva lo stesso gioco. E quindi dentro a quel negozio ho imparato a distinguere, a conoscere la differenza tra i paesi, tra le lingue, tra le culture. Mi divertiva, perché io passavo molte ore in negozio proprio per capire e imparare anche magari una lingua nuova. A un certo punto tua mamma ha deciso di tornare in Angola. Sì, mia mamma ha deciso di tornare a un certo punto perché comunque era venuta qua con un sogno, forse non è riuscita a realizzarlo, e quindi un giorno ci ha detto: io torno a casa perché qui non mi ci trovo. E esattamente 6 anni fa, 6 anni fa ha preso e ha deciso di tornare in Angola e a riaprire il suo negozio lì. E tu andrai a trovarla? C'è molta attesa, no? Sono aspettato tanti anni per rivederla. Sì. E io sono curioso di capire come l'Angola. È un paese in via di sviluppo dove ci sono tante possibilità oggi, tante occasioni. Quindi potrebbe essere anche un posto dove potrei scrivere oppure anche trovarmi e trovare casa. Oggi è un giorno perfetto per volare. Oggi credo che il futuro sia un dovere. Il Ministero della Speranza ha detto che si può sperare. Oggi è un giorno perfetto per volare. Oggi è un giorno che c'è tutto da capire, perché una rosa, anche nel fuoco di Ferragosto. Ma prima o poi ci abbracceremo, è il racconto anche di una lontananza, di un rimpianto. Quanto ha contato la lontananza, il rimpianto, la nostalgia per tua madre? Tanto, perché comunque essendo un libro in parte autobiografico c'è molta verità. Quello che io scrivo sulla madre del ricco, sulla distanza, è una cosa che io ho vissuto in prima persona e che è vera. Quindi tanto, nel senso che negli ultimi anni ho imparato che il problema non è tanto la distanza, ma tanto la quotidianità, cioè il fatto che non avendo una persona vicino, tu questa persona poi fai fatica anche a raccontarle le cose più banali, perché non le capirebbe e perché non vivendole insieme a te farebbe fatica anche a coglierle. Quindi questo, io racconto che non è tanto la distanza in sé, ma tanto la quotidianità. E poi tu sei abituato, perché nella tua famiglia si sarà respirata la nostalgia. È chiaro che persone che sono venute da un altro paese vivono tutti i giorni la nostalgia per il proprio paese, per le persone che hanno lasciato, per quello che erano anche loro stessi in un altro posto. Ma credo che comunque la nostalgia la viviamo un po' tutti, perché al giorno d'oggi, se io dovessi prendere una metro a Milano e dovessi chiedere chi di voi è di Milano, nessuno mi risponderebbe. Quindi credo che abbiamo un po' tutti la nostalgia. Sì, non ci si abitua mai comunque, cioè, viverla non vuol dire essersi abituati, anzi ogni volta è una sorpresa. Guarda che non sono io quello che stai cercando, quello che conosce il tempo e che ti spiega il mondo, quello che ti perdona e ti capisce, quello che non ti frega e che non ti tradisce. Guarda che non sono io quello seduto accanto. Molti definiscono quello che scrivo banale, dicendo, io dico sempre che non conta come dici una cosa, conta il significato, che se io amo una persona e per dirglielo basta dire ti amo, allora io continuerò a dire ti amo, senza usare altre 100.000 parole per dirne semplicemente una. Io sono così, preferisco essere più semplice possibile, ma far capire quello che voglio dire, che essere tanto complicato e non dire alla fine nulla. C'è chi ti ha etichettato come il Fabio Volo, insomma, dei giovani. Questa cosa ti fa piacere o ti fa anche un po' paura? Mi fa piacere perché chi comunque mi etichetta come Fabio Volo dei giovani, oppure chi etichetta Fabio Volo, di solito i suoi libri non li ha letti. E chi ha letto il mio libro ci trova poco di Fabio Volo. Tutte le persone che hanno letto il mio libro, raramente qualcuno mi ha mai detto comunque ci ho trovato qualcosa di Fabio Volo. Però non mi dispiace, cioè nel senso, Volo è uno che vende parecchio, che fa i suoi numeri, che per me non scrive neanche così tanto male. Io ho letto libri peggiori di persone navigate che invece non sono state criticate quanto lui. Quindi no, non mi dispiace per niente, anzi accetto e lo prendo come un complimento. Guarda che non sono io quello che mi somiglia, l'angelo a piedi nudi o il diavolo in bottiglia, il vagabondo sul vagone, la pace fra gli ulivi e la rivoluzione. Guarda che non sono io la mia fotografia, che non vale niente e che ti porti via. Cammino per la strada, qualcuno mi vede. E a proposito, visto che lui è un eclettico e anche tu sembri una persona che avrebbe potuto fare anche altro, potresti fare anche altro? Hai pensato di poterti destreggiare anche con altre cose, la televisione, il cinema? Ma a me la televisione non piace, perché non mi piacciono i tempi della televisione e la finzione che c'è nella televisione. Mi piace la radio, mi piacerebbe tantissimo un giorno parlare in radio, avere un mio programma con un amico, non lo so. E poi mi piace tantissimo il cinema, il teatro tantissimo. Vorrei tanto fare letture dei miei libri come fa Baricco nei teatri, perché i teatri mi piacciono tanto, mi affascinano. E il tuo rapporto con le scuole qual è? Con la scuola quando ero ragazzino era un po' difficile. Adesso? Con le scuole è buono, perché comunque vado lì, racconto la storia che ho vissuto io, che risulta sempre una storia di riscatto, perché è così ed è stata, e noto che i ragazzi, dopo aver scritto la mia storia, si sentono un po' distratti e colgono e riescono a credere ancora in qualcosa. Quindi un buon rapporto. Perché tu fai dei reading, non nelle scuole? No, nelle scuole io faccio poi reading, ma all'inizio racconto la mia storia, inizio a raccontare questa storia di questo ragazzo che un giorno ha scritto un libro e poi ha pubblicato con Mondadori e ha venduto le 100.000 copie. E i ragazzi molto volte dicono: ma come hai fatto? Oppure mi dicono: grazie a te ho capito che posso farcelo anch'io. E credo che questa sia una cosa molto importante. You always find the rain in rainbows and I thought that you were sane, but all your cracks showed and I could wear that dress, you won't look your best, I could get undressed, you'd still look depressed, it's all too much, you're so cold to touch, you don't open up, you don't open up, your kisses are not what I wanted. Your kisses are not what I crave. Your kisses may be a beautiful art, but all I ever wanted was your heart. E allora, a chi ci ascolta e si chiede proprio questo, ma come hai fatto? Tu cosa consiglieresti? Ah, io consiglio che bisogna crederci, cioè consiglio che oggi, al giorno d'oggi, ci hanno insegnato che tu sei un fallito quando fallisci, invece no, tu sei un fallito quando non ci provi. E quindi questo, io dico di crederci, di essere sempre positivi, di essere non presuntuosi, però di provarci, di applicarsi tanto e di credere in quello che si fa, sempre con la positività in testa. Io ho sempre detto venderò tanti libri, ne ho venduti abbastanza, e quando lo dicevo molti mi guardavano scettico, ma non sapevano che dietro c'era tantissimo lavoro e tante ore di poco sonno. Quindi, oltre che crederci, lavorare molto, come dicevi all'inizio. Tantissimo. E c'è stato un momento in cui non ci hai creduto? No, personalmente non c'è mai stato un momento in cui ho detto no, non ce la farò, oppure non ce la potrei fare. prima di questo libro, del secondo, c'è stato un momento in cui mi sono detto adesso cosa faccio? Nel senso, se il libro non dovesse funzionare, secondo, cosa faccio? E invece no, poi mi è passata subito, anche grazie al mio editor, e la prima settimana, prima o poi ci abbracceremo, ha venduto il doppio di copie che ha venduto Fuori Piove Dentro, pure passa a prenderti alla prima. Sei diventato ricco? No, non sono diventato ricco, ma sono felice, quindi posso dire di essere al 35%. If the tears that you have made are slowly drying, oh, but even if they've dried, it don't mean that I'm feeling okay, cause I'm still sad inside. All I really need is you to comfort me. You don't understand, you don't hold my hand, cause your kisses are not what I wanted. Your kisses are not what I crave. Your kisses may be a beautiful art, but all I ever wanted was your heart, right from the start. Grazie, grazie ad Antonio Di Chele Di Stefano per essere stato con noi questa sera. Grazie a voi. Grazie a Filippo Reggi in regia, a tutti voi per l'ascolto, a sabato prossimo. You've got to give a little. That's the glory of love.